No, prende solo quella. Allora, una cosa, volevo raccomandare alle persone, quando gli artisti fanno, dico alla loro poesia di non interrompere durante quello che sta facendo Flavio, di evitarlo, perché dopo gli possiamo tirare tutto. Ma però manca una forza elettrica per uscire dal no, se ti giri, quindi inizierei con Fabrizio Ferretti. Grande resuscitato, dai, è vero, qui c'è un malato. Perché c'è precedenza ai malati? Allora, possiamo evitare di trasformare questo reading in una riunione dopo la polizia, un po' più di tempo. Va bene, allora iniziamo con Domenico. Ecco, non sempre stato molto, ma se vuole che comincio io. Con Domenico Iucci, ma non è scuso che ritorni sul palco. Perché non c'è un ordine scritto, oggi è proprio la festa della poesia in vetro al Comune di Roma. Francamente queste qui ha già incassato i cosiddetti. Oh, che sono queste parole? Cosa sono queste parole? Va bene, sai, ce la sto facendo. Leva l'ego, cammina. Caro tecnico, caro tecnico, Domenico, vuoi dire? Normale. Ragazzi, è un piacere essere qui. Non vedo un cazzo. Volevo anche segnalare che stasera sono assenti alcuni poeti. Meno male. Ogni volta che la bocca io sono malato. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Prego, prego. Volevo segnalare l'assenza ingiustificata soprattutto di Andrea Evangelisti, che ha deciso di andare a vedere i nostri corsi comici. Ma fatto bene. Fatto bene. Siamo contenti. Dieter Kraft, Klaus Auf e non so chi altri mancano. Perché malati. Cioè, fregateli, tu non sei l'organizzatore, fregateli, tu sei poeta, recita. Perché, perché gli voglio caccare il cazzo a fuori gli organizzatori. Sei un poeta, vai. E niente, sto così un po' sorgente per entrare un po'. Sto cercando di entrare un po' così nella dimensione del poeta. Entra pure in un'altra dimensione. No. Già c'è la cosa. Non dite queste cose erano differenziate perché sono quasi che ne capisci solo. Bazzini, così fa stasera, ok. Partiamo forse con un pezzo che sta quasi diventando un classico. Una cosa che parla di cinema. Ti dà fastidio la luce qui? No. C'è chi è che doveva interrompere? No, quello devi interrompere. Lo zilla che vedremo se chi è. Bravo. Non l'hai trovato. Non esiste. Siamo con la prova, non esiste. È stato l'attacco delle bubone omicide! L'attacco degli amanti giganti! L'attacco della donna alta 50 piedi! Fanno matare l'inquista ai marziani, le barbare infuomani, la bestia della notte gialla, i pagliacci assassini nello spazio profondo, le creature dal cervello atomico, le diavolesse su ruote, la donna pantera del Congo, la donna vespa, le donne del pianeta preistorico, le donne gatto della luna, le donne gatto selvaggio, le donne selvagge di fungo, le donne di tigre e serpente marino, il dottore pazzo dell'isola di sangue, Ghiganti, le schiave da oltre l'infinito, il selvaggio mondo della donna pipistrello, lo strangolatore di Hollywood della sportatrice dei vicoli, lo strano mondo del pianeta X, i cattisti nazisti, il topolagno omicida, le droghe di Hollywood con la sega elettrica, le droghe vampire, l'uomo degli occhi avanti di X, il vampiro di velluto, le vergini con la testa di fuoco, le vergini di fuoco nello spazio profondo, i zombie della stratosfera. Questo era per negare il nuovo concetto di poesia, visto che io non ho inventato nulla di quello che ho solamente tradotto. Questo è un... Vabbè, leggo un'altra cosa che sarebbe quasi inedita. Vabbè, aspettavo che c'è un dialogo. La vado, chiamato dove? Estatesi, estatesi. Certo, però il massimo dell'autorevolezza. No, sì, di più. Questa cosa qui, è una cosa che ho letto, vabbè, uno imparla. Questa cosa che vado a leggere adesso, la lessi nel nostro penultimo reading di giugno dell'anno scorso. No, per dire che allora mi piaceva di più, adesso l'ho ampliata e mi sa che l'ho un po' rovinata, però così, l'ho voluta ampliare. È un omaggio, molte delle mie poesie sono un omaggio e questo è... Oggi è il 19! Vabbè, mi dico che oggi non è un omaggio ma il 19! Perché non è un omaggio? Allora, questo qui è quasi un auto omaggio visto che sì, omaggio qui, tutta la cosa. La poesia si chiama I poeti disgustissimi. No, non ci piace. I poeti disgustisti. No. E io l'ho scritta apposta per cagliare cazzo. E ancora cazzo. Allora ci dici. Ok, va bene. I poeti disgustisti detestano i sofisti, si travestono da macisti o tutt'al più da trasformisti. I poeti disgustisti sono strani musicisti, hanno volti poco visti, ignorati dai stegisti. I poeti disgustisti disprezzano gli artisti e frequentano i selfisti, anche quelli un po' nazisti. I poeti disgustisti si aprono come delle cisti, sulle gambe dei codisti, sulle mani dei tennisti, sulle chiappe dei ciclisti, sulle lingue dei linguisti. E i poeti disgustisti sono pessimi affaristi, non saranno mai schisti, ma nemmeno camorristi, né avvocati civilisti, né impiegati un po' attivisti, né alpinisti, né burgesisti, né guardoni, né onanisti. I poeti disgustisti sembrano i camionisti, quei teppisti casinisti che sorpassano gli autisti e poi spiano gli udisti, fanno un salto dai gommisti e circondati da alcolisti, si confessano ai baristi, mentre su dei banchi tristi luce dagli elettricisti e giungono gli spogliarellisti e fantasisti, trapezisti, ecco i contorsionisti, bravi sogni equilibristi, assistiti da estetisti e da antichi costumisti che, me l'ha detto i macchinisti, su dei sette neuralisti si sono finti tangentisti, ma che spiriti edonisti, anche un po' individualisti, che cultura da turisti. Quegli animi razzisti sono pieghe consumisti, schiavi dei capitalisti di quei squadri di azionisti, folle di ex socialisti e di finti comunisti. Ma nel nome dei maoisti, dei castristi e neomarxisti, dei cubisti, surrealisti, futuristi e dadaisti, noi invochiamo gli alpinisti, distruggete i satanisti, disperdete i spiritisti, da potenti oscurantisti, allarmisti e nichilisti, pessimisti e revisionisti, maturisti e interventisti, ecco arriva gli animisti, i buddisti, gli induisti, quei bizzarri animalisti, questi spiriti ottimisti, umanisti, neo-illuministi. Ma i poeti disgustisti troppo spesso sono dentisti, sempre meglio che oculisti, o peggio ancora frati trappisti. O financo farmacisti che si fingono specialisti e sognano d'essere internisti. E non faranno mai turnisti, siano essi tastieristi, bassisti o batteristi, ilari sassofonisti o flautisti o chitarristi. Ma I poeti virgustisti sono ottimi coristi. E da molti sono mal visti quando intonano così. Poeta maledetto! Maledetto poeta! Poeta maledetto! Maledetto poeta! Poeta maledetto! Maledetto poeta! Poeta maledetto! Maledetto poeta! Poeta maledetto! Maledetto poeta! Poeta maledetto! Maledetto poeta! Ne vado con un'altra. Autistico! Bravo, autistico! Completamente inedita, questa è quasi seria. E il giustista è quasi seria. Diciamo un po' autobiografica per testimoniare il fatto che qui la maggior parte di noi si muove anche nell'ambito del rock indipendente capitolino, eccetera. Quindi è una testimonianza di così esperienze vissute sui palchi romani. Grandinho! Grandinho! Se non sapete che vuol dire il nome lo spiego. Perché è tanto lorenzo? Grandinho! Grandinho! Ok. Stiamo lì, ciò fai. L'ultimo palco su cui suonammo era fornito di canonetto e sulle corde della chitarra cresceva retina e muschio infetto. Con un negrone nell'altra mano suonavo un brano di Piggy Pop. Presto quel uomo sarebbe morto per fare posto ad un sexy shop. Quando intervenne il capomastro per dichiarare non si suona più, ci fu una rapida introspezione e un breve senso di déjà vu. Ma poi il taglio ruppe le acque e sussurrò che eravamo retro. Capimmo che il rock era incutrito ed era l'era del gran vignoso. L'ultimo live in cui suonammo era la zona negativa, dove nell'angolo del vomito spuntavano ratti alla deriva. Ma quando il gruppo di supporto, i Punk Panther di Frosinone, sodomizzò anche il buttafuori, ci ritrovammo tutti in prigione. Quando intervenne il capomastro per dichiarare non si suona più, ci fu una rapida introspezione e un breve senso di déjà vu. Ma poi il taglio ruppe le acque e sussurrò che eravamo retro, capimmo che il rock era imputatito ed era vera del gran vino. Adesso torna dopo, Torna dopo? No, ma questa la voglio dire. Allora, in passato noi abbiamo fatto delle serate. Aspettate che io in passato abbiamo fatto le serate dedicate alla Big Generation, dove leggevamo cose di altri. In una delle nostre ultime serate io ho letto delle barzellette sporche. E siccome stiamo preparando delle cose che hanno a che fare con la canzone popolare romana, mi capita in mano questo libro, è capitato di mano, dove ci sono alcuni sonnelli del Sor Capanna, dei quali almeno un paio Capanna. Dei quali almeno un paio mi sembrano alquanto disgustisti e mi sembrano degni di essere letti in questa sede. A termini. No, questa no, è l'altra. Una notte mi insognai che stavo al mare. Facevo il bagno con una signorina. Mentre sciacquavo in mezzo a lunghe chiare, mi accorsi che era buona e assai a mare. Ma che te? Tutto un botto mi svegliai, giù dal letto mi trovai, poi saggette che stavo con i piedi nel cibetto. Poi stavo con i piedi nel cibetto. Ah, il cibetto. Il cibetto, per chi non lo sa, è il vaso da notte. Perché costui, per il cibetto gli ha collocato dei soldi in base a casa. Carina, bravo, bravo, grazie. Grazie. La seconda è l'ultima, questa è l'ultima. Per cui un atto e un frate, una ragazza, gli hanno dato mandare chi un re, ma il cappuccino che sentì la guasa gli rispose di botta alla sua maniera. Se sta l'unica de pezza fosse bronzo, oh che bellezza, mia bella mora adesso sentireste basta l'ora. Bravo. È pesante. Il frate dell'epoca. E viva la cultura capitolina, passiamo là. Brava. Bravo. Ma che è? Ma che è? però Ciccio, adesso vi passiamo un altro poeta. Un altro poeta. Allora presentiamo il nostro amico malato appena operato, Flavio Rivabella. In arte Flavio Rivabella. Non è vero, in arte è. Abbassa il microfono. Allora mi dicono che per l'occasione invece di Hermes mi chiamo Hermes. Allora, un miracolo io sei qui stasera. Vorrei fare un discorso strappacuore. Scusate se hai strappato troppo. Esatto. Però, purtroppo per voi, queste mie lunghe e pericolose ore di leggenda, sto cagacarsi se la vince di passare, mi hanno dato l'ispirazione per delle meravigliose nuove poesie con cui stasera vi delizierò. Chi ve lo dice? Io non te lo dico. La prima si intitola Recenti acquisizioni in tema di salute, leggermente autobiografica. Sono stato in ospedale con la pancia che fa male, mi hanno messo sul lettino e ci parlo col brodino. Nella stanza siamo in tre, hanno messo in mezzo a me. Sole a destra una scureggia e un olezzo brutto aleggia. A sinistra una russata che la notte ormai è fregata. Un infermiere un po' invasato, col bilano mai rasato, e il chirurgo un bel taglione fatto ma presso un coglione. Ma la mano ferma è stata e la massa si è salvata. Giaccio nudo con dolore in un mare di sudore. Entra un tossico che sbotta, dice dammi una piotta. E poi fa una faccia allegra che ti porto qua una negra. Ma poi giunge un'infermiera, grassa, con la testa a pera, che mi manda a casa a razzo per dirgli gli ho rotto il cazzo. Cazzo. Se no è una parola. E io lo devo stare un po' a riposo e non essere nervoso. Ma è un'impresa disperata rinunciare a stasera. Megalomane lo sono, non invocherò perdono, ma un reading di poesia, cosa va senza la mia? Grazie. Ecco, bravo! Hai detto giusto! Adesso, per rispondere al nostro amico Tecno Ciccio, che è da tanto che aspettavamo questo momento, ma cioè, non è un cazzo, quindi sai che aspettiamo un altro. Allora, Tecno Ciccio ha letto una poesia stupenda, composta da tutti i titoli realmente esistenti di film, di B-movie. Io leggerò, ispirata alla sua poesia, un'altra composta da titoli assolutamente inventati e che però chiaramente non riuscirò a leggere con la sua enfasi, anche perché sennò mi allernia pure dall'altra parte. Quindi abbiate pietà, la leggerò piano. Si intitola Tecno Ciccio contro i pirati improbabili. Tecno Ciccio contro il vituperatore automatico, il mistero delle righe a quadretti, il circumpiteto invisibile contro il bisonte trasparente, Tecno Ciccio contro i tafferugli acrobatici, il mistero del coniato artefatto, il triangolo dei cinque lati di fuoco, Tecno Ciccio contro il pigiama inventato, come fa ridere e mi fa male lei, il mistero dei misteri risolti, la casa delle Bertucce inverosimili, il mistero del mostro stupendo, Tecno Ciccio contro il mugnaio un bestialito. Mugnaio! Sì, il peperone che pizzica contro la cipolla che mozzica. Tecno Ciccio colpisce ancora. Ancora colpisce Tecno Ciccio. La farnosa odissea del San Paranoio Puzzolente, il ritorno dei conigli apparenti, gli orrori del pescivendolo che si credeva morto ma aveva solo maldoretti, le ultime grida del capitano muto, Tecno Ciccio contro il mancino con due mani destre, canta la regina dell'impero muto, la vendetta dei chilometri cortissimi, la minaccia del marasma ordinato e Tecno Ciccio contro gli invasori spaziali. Grazie, Domenico. Grazie. per placare un pochino gli animi nel nostro insolto con una bestia, una poesia autobiografica che ricorda i postumi di alcune serate in cui per qualche motivo che sfugge così alla mente uno esagera e poi la mattina dopo ne paga le conseguenze. Si intitola "Il problema più grave è impedire che il gatto lo lecchi". Non vi dico cosa, lo scoprirete poi. Un lungo brivido gelido, come forse tutti i tamburi dell'Africa si siano radunati al centro esatto del mio cranio, formicolio ai piedi, spasmi al ventre, ci siamo, sale, sale, sale, la marea montante, l'onda anomala liberatoria, ecco che i tamburi aumentano il ritmo, gli spasmi si fanno convulsioni, il sudoretto freddo ha ormai preso il posto del pigiama, cerco la forza di rifugiarmi in bagno, nulla da fare. Il pavimento è condannato all'ennesima onda, un ultimo disperato gesto, scanso le innocenti riviste, il comodino, le ignare ciabatte, una, l'altra rimane troppo vicina, ahimè, troppo. E sale, sale, sale la marea montante, l'onda nota la liberatoria. Giuro, giuro a me stesso che questa sarà l'ultima volta, credo la 107ª ultima volta, non verrò mai più nemmeno un chinotto, lo giuro, lo giuro. Bleurg si riversa la putrida bottiglia sul placido suolo e sulla ciabatta rimasta ahimè troppo vicina. I tamburi cessano il battito, il ventre si rilassa, tutto sembra rinascere. Ora il problema più grave è impedire che il gatto lo lecchi. Per il resto, fanculo le promesse, domani si può ricominciare. Grazie. Ne volete un'altra? Grazie, le parole. Dopo? Ma dopo si vede, dai. Chi si vede? Ma lì, vedi lì, vedi anni. Come è sta temperato? Ve ne dirò tre o quattro brevi sulla moglie. Quattro. Non è quattro. Brevi, sei ore e una. Però mi scandalizzano. Oh, se vuoi andare? Aborto spontaneo. Tu hai un corpo nato per l'amore, morto però di parto. Vita, per un istante ho provato le pene dell'inferno, poi ho guardato nei tuoi occhi e quell'istante è diventato eterno. Difettosità. Difettosità. Non lo sapete. È tarato, poverino. Ho il masterizzatore a Bergamo, la macchina fotografica a Firenze, il videoregistratore a Ottavia e tu qui vicino a me. È autobiografica anche questa. Certo, sei un poeta. Grazie. Vabbè, che faccio? Vado via? Va bene, ne dirò un'altra che è talmente vergognosa che poi me ne andrò per non mai arrossire neanche al buio. Lontananza. Vorrei che tu non me ne dovessi andare, lasciando questo vuoto fra le braccia mie. Vorrei che tu rimanessi, o almeno mi lasciassi qualcosa di te, per poterti immaginare quando tu sei via, per poterti sentire sempre mia. Sì, lasciami qualcosa di te, che so, la pregna. Grazie. Invece dice il vero. Avanti il prossimo. Ha detto il giusto. Era verissimo. Bravo, grazie. Ha azzeccato. E la poesia non si vince, ha detto il giusto. Bravo. Bravo! Mi dispiace un po'. Va bene, ce l'hai anche cazzo, devo dire adesso. Questa è dedicata a Paolo che la voleva tanto sentire. Uga Cipalda. Uga Cipalda. È un nome di donna. Due Uga. Luca sei fantastica con quei tre occhi azzurri. Hai un abito così forte che ti usano i servi come contrarie. Non importa se hai la testa troppo grande. Non importa se hai la testa troppo grande rispetto al corpo. Di capoluogo e ti vendo come piscine. Qualche malingua dice che sei meno fine di ergastolano. Normalmente in mezzo alle tue dita dei piedi ci fanno i nidi del bratte. I tuoi capelli sono così belli che li usa l'idraulico per aggiustare i rubinetti. Ed anche se hai le braccia un po' troppo lunghe, le mani prensili, palmate e il becco. Anche se il becco non fa niente, diciamo la verità, non sei neanche troppo simpatica. Io ti amerei anche se fossi una mendicante, Uga Cipalda. Hai anche un nome che fa schifo, per fortuna che almeno sei miliardario. Voi siete quelli che strizzate il tubetto di dentifricio fino a quando non esce più nulla. Voi siete quelli che vi soffiate il naso e poi guardate dentro il fazzoletto. Voi siete quelli che andate al mare di lunedì per rimorchiare il parrucchiere. Voi siete quelli che fate le puzze dentro il letto e poi mettete la testa sotto. Voi siete molto simili a me, solo che io sono più bello. Un'altra poesia che ho scritto oggi pomeriggio si intitola Toglimi le manette. Aspetta un attimo, oggi pomeriggio guarda, stai per lavoro. Sai che lavoro, faccio un cazzo. Toglimi le manette, non ho fatto niente. Toglimi le manette, sono innocente. Toglimi le manette, stringono troppo. Toglimi le manette, non lo farò più. Toglimi le manette, sono cambiato. Toglimi le manette, dirò tutto. Toglimi le manette, adesso ho capito. Toglimi le manette, è vero, hai ragione. Toglimi le manette. Ho sbagliato. Toglimi le manette, ti rispetterò. Toglimi le manette, mamma, così vado a più avanti. Bravo. Non ci andrà più al lavoro. Questa ho scritta proprio prima di andare via, quindi ero proprio forte, fate prima licenza, non sentito asparagi. No, è un poeta, diciamo sarebbe. Copriti che ho freddo. Oggi mi piace. Poi mangia che ho fame. Ora bevo in quanto tu hai sete. Corrono loro, così. Non potete. Corrono loro, così non sudano. Parla più forte che ho sonno. Tagliate le siepi del mio garage. Ma che te fai per il 39? Vanno al mare. Per rimanere chiari di carnevale. Per rimanere chiari di carnevale. Vanno al mare loro. Rimanere. Ma che è nuova questa? Nuova. Chiari di carnagione. Come noi. Africani. Ciao. Ciao. No, e questo è importante questo pezzo, che non c'è prima di vedere. Vanno al mare loro, per rimanere chiari di carnagione come noi. Come noi africani dell'estremo nord Europa, dove fa caldo a gennaio. E le spalle? È eccezionale questo, Pirato. Ma io lo finisco. Abbiamo scherzato. E bello dentro. No, basta. C'è un pancreas che va bene. Una vecchia vecchia vecchia e basta. Ma se non è travestista. Travestista? Dai, travestista è triste, dai, vai a triste. Tutto, grande travestista. Aveva tutto, tutte le altre. No, vabbè. Ho comprato una TV rosa. Ho comprato una TV rosa per non vedere le cazzate che fanno la sera su tutti i canali. Ho comprato una TV rosa perché non avevo i soldi per comprare la sana. Forza puntata. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Stefano c'è Richard, no, allora Stefano Richard, Stefano Magliano, c'è la palla, c'è la palla, c'è la palla, c'è la palla, c'è la palla, c'è la palla, c'è la palla, c'è la palla, c'è la palla, c'è la palla, c'è la palla, c'è la palla, c'è la palla, c'è. No, mentre decidete. Questi tempi vostri si alterava il pubblico, Franco. Il pubblico non generalmente alterato. Morte di un travestito. Sono frasi rette che si chiamano l'ozio è nemico del cane. Non hai capito, non c'è ma lo diceva. Questa era la tematica. Vero, io sono rimasto un po' perché l'ozio è il padre di Tizio, l'ozio è amico di Orazio, l'ozio è proprio un bel tizio. La cosa più importante in un frigorifero è l'isolamento termico. Occorre assicurarsi che lo sportello chiuda bene, non introdurre mai cibi caldi e buona abitudine sdrenarlo spesso. Consumerà meno e durerà di più. Evitare la formazione di depositi di polvere sul condensatore che si trova sul retro. Amico ci dice che ha delle poesie nuove, oserei dire. Vabbè, intanto una tua. Però non esagerare. Ma che effetto sa? Dance, dance, understand, dance, see, dance, dance, understand, dance. capisco, però sono un schifasco del servizio. Dai Stefano, ma sono una mamma questa è la tua bambina. Matteo, senza il raschio, allora mi piace senza raschio, ormai quella là rischio raschio mi piace, voglio quella della donna. Sì. Voglio la pallocca, mi devi come me lei. Non conviene. Ma è quella della vita, quella della passione, quella dei cazzi domenica mai, quella dei cazzi domenica mai. No, qui non è uno scherzo, se questo è serio, è un nuovo segno, non bisogna. Si è comprato anche il libro adesso. Ecco. È un poeta molto serio. È triste apposta. Un applauso di incoraggiamento. Bravo! Bravo! Allora. Scusi, permesso, scusi. Lei non spinga, non vede che chiede. Scusi, permesso, scusi. Stia attento, a piedi, maleducato. Scusi, permesso, scusi. Metta giù un arma, scalzone. Scusi, devo scendere, lei scende. Sia la prossima, anch'io, grazie. Bella! Poesia quotidiana, tutti i giorni tranne la domenica. Buongiorno signore, che desidera? Vorrei 5 rosette e un filone sciapo. Le rosette le vuole cotte o poco cotte? Cotte. Ecco a lei signore, grazie, quant'è? Sono 5.000 lire, si accomodi alla cassa. Interpreta bene, però no, oggi il treno era. Il treno oggi era. Oggi il treno era così. La gente parlava, fumava, diceva, faceva lettera testamento. Ero seduto in un posto di seconda. Alla mia destra avevo una persona molto sinistra. Alla mia sinistra avevo un omeopatico, alla mia destra un mago con la sua rodetta tagliata in tre pezzi. Alla mia sinistra un cane molto alto, alla mia destra una coppia di sposi che non dovevano andare da nessuna parte. Alla mia sinistra tre galline sul comò, alla mia destra un barabaccio in cicocò. Alla mia sinistra una 500 Fiat tamponata, alla mia destra 25 Boy Scout. Ero felice, in questo scompartimento c'era molta allegria, ballavamo tutti insieme, fumavamo tutti insieme e mangiavamo tutti assieme delle croccanti fette biscottate. Ma questo clima idilliaco cessò di esistere quando arrivavamo alla stazione di Venarotta, un paese di 1328 abitanti nella stagione estiva. Lì scesero tutti. A quel punto io, che dovevo scendere a Budapest, rimasi solo. Mi inginocchiai e urlai in silenzio parole gesticolanti dall'interno del mio essere passeggero. Bravo, Bravo, per chi non lo sapesse è un complimento. Cosma. Questo è un viaggio della morte, diciamo. Ho volato per intere generazioni, invecchiando meno di un giorno. Ho sorvolato galassie di luce e fuochi neri profondi come l'incubo della notte. Ho conosciuto il sole eterno e la fulminea terra. Ho toccato le stelle Crux, Virgo e Indra. Ed l'ultimo sono arrivato nei crateri di Zos e Sigillus. io ho disperato le esalazioni allucinogene trasportatrici che mi hanno portato a te. Sarai tu a condurmi sul pianeta del mio sogno, Mirfak. A Mirfak potrò vivere per mille anni o meno di un respiro. Potrò scegliere tra soffrire e gioire, lavorare o dormire, mangiare o vomitare, amare o odiare. Potrò andare al cinema e scegliere liberamente se dormire o vedere il film. A me piaceva molto dormire al cinema. Andrò al mare e osservare a testa in giù le persone che passeggiano sulla battigia, immaginando le difficoltà di chi doveva camminare al polo sud. Potrò finalmente guardare in faccia senza alcun rimorso il gallo del mio pollaio, che da quando è stato creato si è sempre alzato all'alba per svegliare me e tutti gli abitanti del paese. Ora qui si alzerà alle 10 lasciandosi baciare dalla sua gallina preferita. Vedrò finalmente cani con uomini addensati, convinti che essi siano i veri amici degli animali. Vedrò morire la gente cattiva senza poter dire dopo sono sempre i migliori che se ne vanno. Sarò libero di amare le ricci marinate più della mia... più della... Sarò libero di amare le ricci marinate più della... Rifletto e penso alle volte che mi sono sentito frustrato, piccolo, indecente, megalomane, insofferente del mio volante, racimolante, significativo, tetro, rado, in piedi, congiunto, unto, dash, secco, luminoso e strioi, oppure per quale motivo il mio scaldabagno ha sempre consumato troppo e perché non ho mai avuto scarpe che non mi facessero mai male. Perché il mio portafoglio era sempre troppo grande per i soldi che avevo? Come mai ho amato almeno una volta nella mia vita un bambino, la ragazza e la Carrà? Perché ho amato lei, proprio lei? Chi? Insomma, tutte queste mie domande e riflessioni mi costringono a concludere che la vita vissuta sul pianeta che ho abbandonato non è stata che un frammento dell'esperimento divino, frammento che assieme ad altri come me formano dei grandi feci di Dio. Non mi dirà le cose che non faccio dire, lo dico subito. Sono quella intellettuale, non sono forse per voi, forse non apprezzate, comunque io reciterò lo stesso. A che ridono, te lo offendi o fa piacere? Vabbè, mi farebbe piacere. Grazie. Non mettere le mani avanti che te ne tirano dietro poi. Che preferite che recito? Allora, poesia poesiola autocensurata, oppure i procacciatori di concetti, oppure l'utilità del canestrello, oppure rombo, oppure morte rinascita, oppure lo scheletro autocensurato. No, questa è una poesia, eh? Procacciatori, oppure bravo Babbo Natale, oppure Natale con il scimare, oppure Natale con internet, il giorno con Quindi lo scheletro questa è... Allora, prestate attenzione che è intellettuale, sono parole difficili, non so se... Poi dopo c'è anche qualcuno che me la spiega, se poi c'è il famoso, il famigerato Fabio Meloni critico che dopo farà una cosa proprio... Esatto, cioè farà un tono proprio... Allora, vabbè, ragazzi, io comincio, lo scheletro, attenzione. Ascoltate attentamente. Tutte le notti ho un incubo ricorrente. Infatti vedo uno scheletro che mi insegue. Dovunque sono me lo ritrovo dietro. L'altra notte. No. Allora, ricomincio da capo. Tutte le notti ho un incubo ricorrente. Infatti vedo uno scheletro che mi insegue. Dovunque sono me lo ritrovo dietro. L'altra notte, come al solito, spengo la luce, sbadiglio, chiudo gli occhi, ma ecco che piombo in un sonno pesante, umido, faticoso, senza fiato. Infatti stavo correndo e correvo per la città, e il testo coperto di verdi e brandelli di carne decomposta che perdeva di qualità correva dietro di me. E io correvo dietro di lui, no, anzi, insomma, non mi ricordo bene se lo inseguivo io o lui inseguiva me. Urlava anche lui. Di corsa scendo le scale della metropolitana e lui sempre dietro finché non entro nel vagone, anche lui. Mi si piazza proprio dietro le mie spalle, così vicino da sentire il suo dolciastro alito cadaverico affluire vischiosamente nelle mie ormai rassegnate narici. La sua lingua squamosa e ossuta, intrisa di liquame caldo giallo-verde. Ma lui non accenna con me. Con punte di grigio cosparse sporadicamente, senza una regola ritmica ornamentale, mi sdruppava il collo. Avete capito? Sì. Pensai con sorpresa e imbarazzo che quello non era uno scheletro, bensì era una scheletra che voleva avere rapporti sessuali completi con me. La cosa mi provocò immediatamente uno stato di nausea. Mi giro di scatto e gli vomito addosso tutto il minestrone decomposto ingerito come si fa, che in genere lo trattengo in casi analoghi a questo. Vabbè, normalmente c'è la base musicale che qui aumenta due, qui allora. Si apre la portiera, non la Caterina, la portiera del mio palazzo, bensì quella del metrò, perché per aprire la sola Caterina ci vorrebbe una motosega e un coltellaccio da macello. Insomma, si apre la portiera, esco fuori barcollando, ma una figura mi appare ritta, immobile, di fronte a me. Era colui. Sì, lo scheletro sporco di vomito che mi sputava in un occhio. Non ci vedo più. A tastoni prendo la prima mazza da baseball che mi capita in mano e gliela scarico addosso, sferrando colpi su colpi, finché quell'ammasso di merda non si scompone in un'infinità di pezzi di ossa di cartilagine che per sbaglio colpisco anche una testa di un signore che passava di là. Ma mentre tornavo, vittorioso sul mio cammino, con lo spazzolone in mano, cammino spazzolone, non avete capito, quindi non avete riso, se no ridevate. Cammino spazzolone, capito? Vabbè. Le sue ossa si ricomponevano e tutto a un tratto dietro me mi sento come una mano. Era una mano. Lorenda creatura mi appare di nuovo, grazie, perché io mi aspettavo una cosa del genere. Lorenda creatura mi apparve di nuovo bloccandomi il passo dicendo. Allora, Lorenda creatura mi appare di nuovo bloccandomi il passo dicendo: ehi tu, non avere paura, sono Franco, la sorella di zio Fernanda. Stavo cercando un uovo in camicia con i baffi in una ciotola di tequila con il loro sito internet web. HTTP e l'indirizzo di posta elettronica e email, chiocciolina compresa. Volevo chiederti solo se mi c'è un buffo, se ti faccio ridere o se sei tutte chiacchiere di istintivo. Aspetta, ho perso il fiato. No, lasciatelo parlare, gradisce abbastanza, se fa difendere da solo. Insomma, buffo come? Ti faccio ridere, mi c'è un buffo, Ti sembra un pagliaccio, eh? Eh? Eh? Sì, eh? Sì, sì. Stai parlando con me? Ce l'hai con me? Non c'è nessuno qua, fanculo. Vabbè, adesso a voi vi sembrerà questa una cosa che io ho copiato dagli altri, ma in realtà questa cosa l'ho fatta tanto tempo fa. Però dopo tutti dicono, ah, ma questo non copia l'altro, i suoi derivati, copia questo, copia l'altro. Questa è una polemica che ho pensato. Poi ho visto due polli abbracciati, una milza sul monopattino, mi sono pisciato addosso e sono caduto in trance. Sono rinvenuto poi tra 40 giorni e 89 notti in casa di Amanda Lear e Timo Di Liri, completamente vestito con sparso di biancheria intima femminile usata e una mistura di base, no, una mistura, scusate, una mistura base di naftalina e olio campurale, acidi urici, peste sciroppate, mele, miele e caffè agri. Davanti a un televisore acceso dove Bruno Lauzi bofonchiava karaoke in una trasmissione via satellite per sordociechi paralitico catatonici. Ah, non è finita ancora. Poi, e nei sottotitoli in rosso c'era scritto che mi stavo per svegliare, infatti in quell'istante sono alla sveglia e caschia dal letto. L'ho letta male, però questa è meglio che quella leggete voi quando uscirà qualche altra. Sì. Allora, vedi che non faccio ridere, nessuno ha fatto. Quanta nota è la copia? 700.000 lire. Ma 7-800. Allora, ve leggo un'altra cosa che c'ha a che fare con la morte, perché secondo me. No, poi ci fai Dattan, ci fai Dattan, no. Ci fai quella autocensurata. Allora, questa. Guarda, lo dice proprio sottolineato. Questa è un'altra poesia, che siccome. Voglio vedere il beep. Dopo faccio un. No, poi vai Dattan, dai anche. Non la conosco, ma no, stava ci fai già. Allora, questo è un racconto. Questo è un racconto. Prima che no, quella era una poesia, era una prosa. Questo è un racconto. Ha sentito la morte e rinascita. Alcuni di voi la conoscete, alcuni di noi la conoscono. Allora, nella mia breve vita, ma intensa, ho accumulato in lungo e largo molte esperienze. A soli 88 anni consumavo il mio primo rapporto sessuale. Fu con una famosa troia maltese d'origine napoletana che raggiunsi il mio primo orgasmo. Poi con un'ex comunitaria e dopo seguirono ad intervalli regolari belghe, puglie e giamaicane. Ero già andato in India, in Irlanda del Nord, Normandia, America Latina, USA, Australia, Ecuatore, Nuvolari, Explorer Caffè, Extra, Quadrofemia Caffè, Latino, Frontiera, Conclea, Ricoce, Monte dei. A molte centri sociali, vabbè, per i motivi miei personali. Possedevo una Jaguar Indaco multicolore, fumavo la pipa e il sigaro e le canne contemporaneamente. A 96 anni, nel pieno vigore fisico, vinsi alla lotteria di Capodanno e mi sposai con una porno star e facevamo un sacco di porcate, tanto che una notte ci trovarono morti in una stanza d'albergo. Fu solo in quel momento che cominciai a capire di essere morto. Dopo qualche momento che cominciai a capire di essere morto, dopo qualche giorno, in pieno delirio tentavo di accendere la luce, ma in quel nuovo albergo dove mi avevano portato il servizio era scarso. La stanza era stretta e lunga e c'entravo solamente io con il mio letto a forma di sarcofago. E in compenso però era un posto tranquillo, lontano dai rumori quotidiani. In silenzio totale. Un silenzio di tomba. Male, è finita. Ma perché devo finire? Sono appena a un quarto. A un quarto. Sì. Non c'era. Tanto vabbè, io vado, voi parlate tranquillamente. Io faccio da sottofondo. Allora che famo domani? Non c'era l'aria condizionata, ma non era il caso di lamentarsi, tanto che respiravo. Cioè tanto per te. Quando. No, quindi non potevo fumare, ma ogni tanto esternavo qualche fuoco fatuo. Non so se avete capito. Mi annoiavo a morte perché non c'era il televisore, quel silenzio mi faceva cascare le palle, infatti dopo un po' si staccarono anche quelle, ma non per colpa della noia. La seguirono a brevi intervalli il naso, le orecchie, fino a quando non andai mio malgrado in decomposizione. Sembravo una polenta verde con pezzetti di lesso e gelatina viola. Mi facevo il ribrezzo e sentii che era arrivato il momento di fare il fantasma. Ma concentrai un po' il mio, cioè mi concentrai un pochetto, non riesco a leggere questo, e feci il traino autogeno e dopo 30 giorni ero fuori da me. Il traino, testa fra le mura, infatti su di una nuvola, questa è vecchia, c'era Tullio Solenghi vestito di bianco che mi voleva offrire una tazza di caffè da Lavazza, ma fui bloccato da un volante di Ghostbuster del Purgatorio che mi portarono a scontare 30 anni di peccati alla rara. Poi, durante la prigionia, scrissi il famoso libro Lo Zen e la programmazione della lavatrice. Fui invitato a presentarlo al San Maurizio Costanzo Show. Divenni un eccellente cantautore e partecipai al 2000esimo Festival di Sant'Antonio. Arrivai 6666esimo insieme a Totò Cotugno. Poi feci domanda per la convenzione al buddismo e ottenni la promozione. Così mi sono reincarnato e adesso sono una sigaretta. Il mio nome è Lucky e il mio cognome è Strike. Vivo in una casa di carta in Stagnola. La mia famiglia è composta da 20 persone e io sono il 18esimo. Sono laureato in filosofia e scienze esoteriche e sono un monaco buddista. Quindi il mio scopo è di raggiungere il Nirvana. Durante la mia esperienza trascendentale, trasalentizio, ho scoperto le due vie del Tao per esprimere la mia coscienza dall'infinito. Una è la via semplice, cioè accensione, aspirazione, filtro. L'altra è un po' più complessa, cioè l'unione con la marijuana, quale risultato della complessione totale dell'essere, yin e yang, in una cosmicità di altissimo livello psichico, quasi a raggiungere l'incanto divino di cui solo il buon Dio poteva esserne l'artefice. Vita lunga e prospera, o bene non gridare, non urlare tesoro, sto bene, sai che ce la sto facendo. Vabbè, questa è un'altra. Ma adesso ti dico quella che è un'altra. Oh, ma tanto non c'è più nessun poeta, quindi vado avanti. Allora. Vai avanti. Io a casa. Ciao. Bravo. Aspetta, porta. Allora, vi dico questa. Ammazzare due? Ma domani è stato, non dove hai? Appunto, che cazzo hai fatto? Adesso dov'è? No, sembra che sai che ti devi alzare presto, ma che è? Che cazzo è? No, è presto. Invece devi andare, fammi capito? Non avete mai, ma dite da dopo, che apri? Faccio una poesia dedicata a Tecno Ciccio. Questa non fa ridere perché è sullo stile intellettuale di William Burroughs. Bravo il leggio, si rifiuta anche lui. Vedi che non siete intellettuali, ridete su ste cose. Adesso questa è una poesia stile Beat Generation, conoscete un certo William Burroughs? Allora, i procacciatori di concetto, questa è dedicata al Teschio e a Tecno Ciccio, scritta alla maniera di William Burroughs. Ehi voi che procacciate i concerti, che camminate nella notte sulla strada bagnata con le scarpe grosse e il passo breve, dove andate? Andate come due loschi figuri per i locali pub, eh? Vi ho beccato. Ehi voi, vestiti come ladri di concerti, dove andate con questo freddo, con il cappotto e la sciarpa, con le salsicce in tasca, capelli grassi e un po' spettinati? sembrate due degli stelli invecchiati, due pochi di buono, un po' pezzi di merda e un po' cazzoni. Ma è questo che serve per la nostra band. Non sputare addosso a quel signore, bastardi, non ci fanno suonare, con il boccale pieno di birra in mano, ti senti dire, il palco è là, e andatevelo a vedere, dannazione, non c'è l'amplificatore per la chitarra, sti cazzi, porterai il suo, e la batteria? Speriamo che il batterista non si ustioni le mani con le calde arroste. Questa è una citazione. Tu, o filosofo delle sale, che combatti ogni giorno con le 7-8 mila lire a testa, dei dischetti che suonano dopo il liceo, lascia parlare lui, che è il più grosso. Poi anche i baffi e gli occhiali. E dunque, li può prendere tutti con una sola mano a quei sbruffoni pieni di merda. Ci dovete far suonare stasera con le aste e i microfoni tagliati a dovere, tagliati, tirati, a dovere, brutti finocchi, figli di puttana. Ci sono delle dischette in questo locale? Merda, dobbiamo andare, se no ci troviamo più il tizio che dovevamo dare il demo. Questo è il nostro lavoro, qualcuno lo deve pur fare, io ho scelto noi, merda, ehi merda, fanculo. Siamo dei malati, ma non lo so capire, vedi? L'ho detto. Vabbè, adesso me ne dico un'altra. Piano piano faccio andare via. Dille tutte, ma c'è! Tutte, sei sicuro? Ma tutte insieme in una. Oh, io voglio ricordare. Io devo andare. Ciao. Ancora qua stai? Ma non siete nottamboli per niente, mamma mia. Ma è una ballata. Dove? Ma scherzo di niente. Me devo andare a operare. Grazie. Devo fare un'altra operazione. Basta, meglio. Mi rifiuto di dire cose perché voi siete una bestia. Vabbè, facciamo un altro giro. Una. Non capire la fine della poesia. Abbiamo finito, nessuno vuole intervenire. No. C'è la polizia. E adesso c'è Fabio che parlerà di noi. Vai con necrologio. Io volevo far notare che qui è stato insinuato che ai poeti disgustisti non piace Raffaella Carrai, invece io canto ad alta voce nana na na na na na na na na na na na na na. Allora, questa sera tranquillo, esprimiti con le parole. Dopo questa sera abbiamo assistito a questo reading di poesie molto autobiografiche. C'è gente che dorme, giustamente, perché finta dal proprio lavoro. Certo. Sia come uno che lavora. C'è il quaderno dei poesie così grosso. Dire che c'è stato un livello molto più vicino alla sfera individuale. Vabbè, diciamo che le poesie di... Una palla di ciascuno, la sfera individuale. Mi rifiuto. No, però, dai, Fabio, potevo... Posso alzo la mano, così ti do un input, posso darmi? No, no, dillo. C'è ragione, io te lo appoggio. Dove? Esatto, a questo punto, ragazzi, è venuto un critico... Dai, qualcuno dica qualcosa. Cantiamo, dai, di qualcosa. No, dai. Però fai bello lì, giusto anche. Beh, ci ti fa un dato musica. Ciao. Senti, caro Canziani, sarebbe anche il caso di segnalare la nostra prossima iniziativa. Ma che ci siamo tutti noi? Vabbè, ma c'è qualcuno. Ci possiamo anche telefonare. Il 25 maggio, che cosa facciamo? C'è un grosso concerto ad Orfeo. Ma quale Orfeo? Ad Orfeo! Lo dico io. La famigliola, veramente. Addirittura quattro concerti. È spento quel microfono. Quattro. È spento quel microfono. Allora, no, dai, è spento quel microfono. Allora urlerò. Accendilo magari. Ma hai fatto venire 71 erri. Guarda se ti è attaccato. Ah, il 25 maggio. E non lo so. The Fentinels suonano all'Orfeo, all'Orfeo del 95. Poi mi stupisco che Portastino non sappia che il primo giugno hanno preso il gruppo dal nome di Voodoo Barbecue. Poi rimane in No, cioè, Barbecue però... Prima i Fentinels sono quattro volte. Aspetta, no, i Fentinels. I Voodoo Barbecue suonano all'Orfeo il primo giugno. Il 10-11 giugno, The Sentinels suonano al Cedar Pub, mentre il 25 giugno i nuovi belli e forse il Voodoo Barbecue suonano al Cedar Pub, mentre il 16 giugno, quasi sicuramente, i nuovi belli e forse il Voodoo Barbecue suonano al Jungle, mentre a luglio pure ci saranno altri concerti dei Fentinels, dei Voodoo Barbecue e dei Noel Band. A Natale, agosto e a Natale. E ma... ci sono tanti altri gruppi, ah ricordo il 7 luglio nei Sof faranno di supporto. No, è stata segata. Lei l'ho detto apposta per fare incazzare qui, perché mi dice il più presente, ma è che questa data è stata segata. Peccato perché io ci tenevo tanto perché io avrei tornato di data. Non c'è segata. Dei soft sono andati un po' a un famosissimo gruppo. Ma è stata segata. Uno dei gruppi più famosi della musica. È stata segata in due. Post industriale. Quindi è un po' dare. Dire i Dead in June, però a quanto pare non si farà nulla, peccato perché sarebbe chiamato al centralino. Adesso però io per dopo. Poi dopo che se via ancora c'è il centralino avete detto tutte le cose. Ma se voi avete posto. Ma non c'è. Perché ho detto che andate e dice. Ma al centralino dove? Cose che non bisognava dirle. Non è prima di dire questo. Informate occhi qua e là. È mega roba. Applauditelo così almeno si sta zitto. Ho detto tutte queste stronzate. In più faremo altri meeting. Arrivederci. Ma che ora? Al centralino dopo al 12. Bravo! Certo, noi siamo da pazzi, chi è? Perché? Perché è finito tutto, adesso ce ne andiamo a casa. Adesso ci togliamo vestiti. Adesso vi racconto della mia... Volevo dire una poesia, pure Stefano dice. Troppo bello. È negato per tutta la serata, manco fosse tutta la stagione. Ma scusa, no, però aspetta, allora adesso pronunciati. È la stasera che mi ha informato o proprio un nome? Della genere. Di futuro ti proporrai? Nel 2000 speriamo di legge così e vecchie. Ma quelle cose stanno per arrivare. Tutto ciò non può che farci felici. Tutta vita, ammazza che facce smorte, questo rischio, adesso andiamo a raccogliere l'applauso del pubblico.